Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Buonasera a tutti e tutte, ben ritornate a Mebius, terremoti e tremori per poi finire nell'antica città di Katna. Però adesso sentiamoli tutti i titoli di questa puntata. Rimuovere artificialmente l'anidride carbonica dall'atmosfera. Al momento è una procedura inefficiente, ma in futuro potrebbe essere indispensabile. Un vulcano in provetta e una mini eruzione ricostruita in laboratorio hanno permesso di isolare e identificare per la prima volta i segnali sismici e i tremori utili a prevedere le eruzioni. La ricerca è stata pubblicata da Science. Un gruppo di ricercatrici spagnole dell'Università di Valencia ha affrontato il problema della violenza domestica sulle donne dal punto di vista degli effetti sul sistema ormonale. Le prime forme di vita sulla Terra e la presenza di materiale organico nei meteoriti è il problema dell'origine della vita sul nostro pianeta e nell'universo. Gli Indiana Jones contemporanei sono biologi, geologi e zoologi. Lo vediamo a Katna, antica metropoli siriana dell'età del ferro. Sentite questa musica? Accompagna una scena che fa parte della storia del cinema. Siamo nel 1957, il film è Picnic, interpretato da Kim Novak e William Holden, allora giovani di grande successo, e in questa sequenza impegnati a danzare in riva al fiume durante una festa di una cittadina del Midwest americano. La scena fu considerata per molto tempo come uno dei massimi esempi di sequenza erotica, e loro due infatti, dopo questo ballo, cadono in una love story rovente quanto impossibile. Però cosa successe una certa sera del 1958 in un certo piccolo cinema di Fort Lee, cittadina del New Jersey? Successe che ad un certo punto, e per una frazione minima di secondo, apparvero prima uno e poi dopo un po' un altro fotogramma. Due fotogrammi, insomma. Il primo con un'immagine di Coca-Cola, l'altro con un'immagine di popcorn. L'idea, l'esperimento, fu di James Vickery, grande esperto di marketing americano, morto nel 1977 e famoso in tutto il mondo per le sue ricerche sulle componenti emotive che possono influenzare i comportamenti d'acquisto e le opinioni sui prodotti. Nel 1958 però Vickery non era famoso, ma cercava di diventarlo. Adesso facciamo un salto di un bel po' di anni. Manca poco alle elezioni americane, questa volta si fronteggiano Obama e McCain, ma l'ultima volta toccò a Bush e Gore. In quell'occasione avvenne un fattaccio di ragguardevole portata, scoperto dal quotidiano francese Le Monde e poi anche subito ripreso dalla rivista americana Time. In uno spot pubblicitario di George Bush, ecco, ve lo faccio sentire. Under Clinton Gore, prescription drug prices have skyrocketed and nothing's been done. George Bush has a... Uno spot in cui era attaccato il programma di Al Gore in merito alle prescrizioni mediche e all'uso dei farmaci. Ecco, adesso dovrebbero essere passati circa 25 secondi. Dopo 25 secondi venne inserita, ci fu una sleale iniezione mediatica, potremmo definirla così. Cioè, esattamente al 25esimo secondo appare la parola rats, ovvero topi, meglio topastri, un po' di fogna e non topolini disneyani. Obiettivo dell'inserimento: inviare un messaggio subliminale che facesse insorgere nel pubblico una connessione fra democratici e rats, ovvero topastri. Come vi ho detto poco fa, fu James Vickery nel 1958 ad effettuare quel famoso esperimento con il film di Picnic. Al termine di questo esperimento, Vickery dichiarò che, dopo la proiezione, ci fu un incremento netto delle vendite di Coca-Cola e di popcorn nell'atrio del cinema. Lui, come vi ho detto, nel 58 era ancora uno sconosciuto personaggio, ma quando nel 1972 dichiarò che in realtà quell'esperimento non diede assolutamente risultati minimamente significativi, bene, lui era famoso, poteva permettersi una certa sfacciata sincerità e la leggenda metropolitana si era ormai diffusa e radicata in tutte le metropoli. Infatti, nessun esperimento di psicologia comportamentale ha mai verificato l'attendibilità di questo fenomeno. Stimoli subliminali non fanno venire sete né fame e nemmeno fanno cambiare i giudizi politici. Se andate al nostro sito, nelle news trovate il link allo spot con i topi che appaiono al 25° secondo. C'era una volta una torre e adesso non c'è più, solo che da quella volta in cui c'era e l'adesso sono passati pochi giorni, insomma, è circolata una notizia errata su una certa torre. Quale? Do la linea a Maurizio Menis. Buonasera a tutti, Renato Baciocchi, introduco subito l'ospite. Buonasera Baciocchi. Buonasera. Dunque, lei è docente di ingegneria ambientale all'Università di Tor Vergata di Roma e anticipo subito che lei ha una precisazione piuttosto importante da fare rispetto a quello che sto per dire. Ecco, il dato da cui partiamo è una notizia che è uscita su quotidiani anche, direi, piuttosto autorevoli e anche su molti siti. Parliamo di una torre, diciamo di un dispositivo per l'assorbimento della CO2 atmosferica, la famosa anidride carbonica che siede al banco degli imputati per l'effetto serra. E quindi parliamo di una specie di aspiratore, mettiamola così, che estrae la CO2, l'anidride carbonica, dall'aria. L'annuncio viene dal Canada, in particolare da David Cate della Calgary University. Cate è un noto scienziato impegnato sul fronte dell'ambiente. Questa torre, si legge, intrappola la CO2 con una specie di pioggerella di una certa sostanza, l'idrossido di sodio. E molta enfasi è stata messa su un aspetto che è un po' il punto centrale della nostra discussione e della sua precisazione, e cioè che per far funzionare questo processo, che appunto, ricordiamolo, cattura la CO2 inglobandola nell'idrossido di sodio, si consuma poca energia. Nel senso, l'equivalente di CO2 prodotto per generare l'energia necessaria a far funzionare il processo è solo un decimo della CO2 che si sequestra con questo metodo. Quindi, insomma, un bilancio molto positivo. Dunque, Baciocchi, insomma, messa così, sembra che abbiamo risolto il problema della CO2. Lei invece deve fare, dicevamo, una precisazione importante. Esatto, in realtà appunto la precisazione fondamentale è che purtroppo il processo di cattura di anidride carbonica è un processo piuttosto complesso, che comporta quindi sicuramente una fase di assorbimento, e correttamente i giornali hanno riportato quei consumi a cui lei accennava, quel 10% di CO2, che è effettivamente vero, però esclusivamente per quanto riguarda la fase di assorbimento. Okay. Da questo assorbimento si ottiene una corrente di carbonato di sodio, dalla quale ovviamente la CO2 deve essere estratta, in modo tale da poter ottenere CO2 pura, che possa essere poi sequestrata in un sito di stoccaggio geologico di quale si parla ormai diffusamente, diciamo, a livello europeo ed internazionale. Gli stessi della CCS classica, cioè di quella tecnologia che dovrebbe intercettare le emissioni di anidride carbonica, per esempio nei fumi di una centrale elettrica a carbone, e spararla sottoterra. Esattamente, il destino della CO2 sarebbe esattamente lo stesso. Okay. Il problema appunto è che per tutta questa fase di recupero della CO2 dalla soluzione di carbonato c'è una richiesta di reagenti chimici, i quali ovviamente non possono essere continuamente acquistati sul mercato a pena di rendere il processo assolutamente non sostenibile economicamente. E anche materialmente forse, no? Avremo degli oceani di reagenti. Esatto, una questione di disponibilità, e rendono necessario quindi il recupero di questi materiali. Okay. Recupero che avviene attraverso una serie di cicli che sono purtroppo energeticamente molto impegnativi. Okay. E quindi complessivamente l'intero ciclo di cattura della CO2 dall'aria non richiede un decimo della CO2 emessa, diciamo, per bruciare l'equivalente quantità di carbone, ma richiede più o meno la stessa quantità, se non di più. In pratica mi servirebbe più energia di quella che io riesco a produrre mettendo la stessa quantità di CO2. Quindi è un bilancio che diventa negativo, anziché... Diventa addirittura negativo, specialmente se io brucio carbone. Se faccio riferimento al metano, le cose sono leggermente migliori. Certo. Ecco, è importante dire che lei e un suo collega in particolare siete stati i primi quantificare anche economicamente proprio questo processo. Sì, noi abbiamo fatto col professor Mazzotti del Politecnico di Zurigo un lavoro nel 2006, dei quali abbiamo sostanzialmente fatto una valutazione del complessivo ciclo, e quindi abbiamo fatto una valutazione sia dei bilanci di materia e di energia, e siamo giunti alle conclusioni a cui accennavo precedentemente, e abbiamo soprattutto evidenziato in quel lavoro, e ci terrei a fare questa ulteriore precisazione, che in realtà la torre di assorbimento in sé, oltre al discorso energetico che facevamo prima, anche da un punto di vista tecnologico, è l'unico elemento certo di tutto il ciclo, mentre tutta la ricerca e sviluppo necessaria sarebbe nell'altra parte del ciclo, cioè quella del recupero. Che infatti è una direzione nella quale si sta indagando per cercare di trovare un processo che sia meno energivoro di quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Esattamente, e infatti ci terrei da dire che il professor David Kitt, che lei citava all'inizio della trasmissione, in realtà sta lavorando su questo. Benissimo, senta, ecco, io però le faccio una domanda. Ma è veramente necessario, cioè mi spiego, le politiche attuali per contenere le emissioni di CO2 sostanzialmente puntano a intercettare la CO2 dalle fonti di emissioni più intense, quindi le centrali elettriche, la grande industria, per esempio quella siderurgica, gli altoforni. Ecco, qui invece si parla di sequestrare la CO2 dall'atmosfera. Ma ecco, non è un po' una misura da ultima spiaggia, voglio dire, non dovremmo essere messi veramente male per pensare di ricorrere a questa soluzione? Allora, in realtà ci sono due buoni motivi per fare la cattura della CO2 dall'aria. Uno è quello che in realtà i sistemi CCS a cui lei accennava adesso sono sistemi che in realtà intercettano soltanto le emissioni dei grandi sorgenti puntiformi. Quindi rimane un 30-40% di emissioni, che sono quelle del traffico veicolare, sono quelle del traffico aereo, che rimarrebbero fuori da questi interventi. Il secondo aspetto è che purtroppo è vero che ci sono in progetto questi sistemi CCS, ma se noi confrontiamo le emissioni attuali, parliamo di ordine di decine di miliardi di tonnellate all'anno di CO2 emesse nel mondo, e i sistemi CCS attualmente implementati, parliamo di purtroppo di qualche milione, sono del tutto ininfluenti. Senta, cioè il punto è che anche implementando nel miglior modo le politiche di sequestro di anidride carbonica, laddove viene prodotta in modo concentrato e con tutti gli accorgimenti, potremmo comunque trovarci in una situazione in cui non basta e c'è bisogno comunque di tirarla via dall'aria. Potrebbe essere, purtroppo potrebbe essere, anche perché appunto sembra poi a livello internazionale le decisioni dei governi sono sempre così lente che in realtà questa prospettiva non è affatto così improbabile, secondo me, e non solo secondo me, purtroppo. Va bene, grazie mille Baciocchi. Grazie a lei, a presto, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo al gioco, vi tocca risolvere il nostro quiz. L'avrete vista più volte, parlo della Luna circondata da anelli colorati. Da che cosa dipende questo fenomeno? Prima possibile risposta. L'origine del fenomeno non è cosa piacevole, si tratta di inquinamento. I gas inquinanti generano questo effetto di diffrazione. Ci scriverete gas. L'effetto è generato dalle nubi di condensa che gli aerei producono quando volano ad alta quota. Ci scriverete aerei. Terza possibilità, negli strati alti della troposfera, intorno ai 20 km di altezza, si possono formare delle nubi sottili costituite da goccioline di diverse dimensioni, spesso anche microcristalli di ghiaccio. Queste determinano la diffrazione cromatica. Ci scriverete nubi. Che cosa si vince? Beh no, prima dove scriverete e il numero di SMS che dovete usare, 349-238-6666, 349-238-6666. Si vince il libro di Carl Gerassi, Il seme di Menachem, di Renzo Editori, con Melanie Ledlow, che è uno dei personaggi del romanzo, direttrice di una fondazione impegnata nella biologia riproduttiva, e Menachem Dvir, che è un ingegnere nucleare israeliano. È un romanzo, però è intriso di cose di scienza. In collaborazione con IBS.it. Si può ricostruire in laboratorio quello che combina un vulcano? Pare di sì, ed è in questo modo che si può poi parlare di terremoti e tremori che, come vi spiega ora Chiara Albicocco, non c'entrano i tremori con la paura della gente. Ricreare un'eruzione vulcanica in laboratorio, in cui il vulcano è ricavato da un cilindro di 10 cm di basalto proveniente dall'Etna, è possibile. E ci è riuscito un team di vulcanologi internazionale, e tra questi ricercatori coinvolti un ruolo fondamentale l'ha giocato un italiano, Sergio Vinciguerra, che è ricercatore precario, lui ci tiene a sottolinearlo, dell'INGV, che è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Intanto buonasera Vinciguerra. Buonasera. Vinciguerra, lei ci tiene a precisare che è precario, e lo capiamo bene il motivo, però ha l'orgoglio, che non è da tutti, di una pubblicazione su Science. Certo, la ringrazio. Allora, vogliamo dire che il suo studio è stato pubblicato su Science, lei ha collaborato con un team di vulcanologi internazionale e siete arrivati ad isolare, a identificare i segnali sismici che ci sono prima delle eruzioni vulcaniche. Allora, intanto se ci spiega qual è stato l'esperimento che voi avete fatto e poi ne capiamo l'importanza. Sì, certo. Diciamo, per schematizzare il problema, noi sappiamo che vulcani, soprattutto quelli attivi, hanno dei cicli che portano a delle eruzioni. Questi cicli si manifestano chiaramente quando arriva del nuovo magma, il vulcano si rigonfia e si comincia a fratturare, generando della sismicità. L'obiettivo del vulcanologo e del sismologo è capire, in base a questi segnali sismici che cominciano ad aumentare, che si sta per verificare un'eruzione, in che tempi e in che modalità. Il problema qual è? Che chi ha a che fare con col vulcano deve interpretare dal cambiamento di un segnale, deve ricostruire un modello o cercare di interpretarlo per capire se appunto sta per avvenire un'eruzione. Le faccio un esempio. Sì. Medico. Cioè, noi facciamo l'elettrocardiogramma a un gigante, e bisogna capire se in base alla aritmia di questo elettrocardiogramma stiamo approcciando una crisi cardiaca o meno. È chiaro che noi non abbiamo le autopsie o abbiamo la possibilità di smantellare il corpo, come possiamo fare come con l'uomo, e capire tutti i singoli passaggi, perché un vulcano è estremamente eterogeneo ed estremamente complesso. Certo. Ora, siccome i segnali variano a seconda se sono dovuti a dei processi di rottura, semplicemente, quindi una faglia che si riattiva e si muove, oppure sono dovuti a dei movimenti di fluidi, di gas di cui il vulcano è ricco. Normalmente si cerca dal cambiamento di questi segnali di costruire un modello, ma non si sa qual è il meccanismo fisico preciso che genera un segnale rispetto a un altro. Ecco, e voi siete andati a investigare, diciamo, proprio questo aspetto. Fatto questo. Cioè, il laboratorio, è vero che siamo diciamo costretti, tra virgolette, a operare con dei campioni piccoli, però il laboratorio ci permette di isolare tutte le variabili, perché conosciamo la pressione che applichiamo al campione, conosciamo la temperatura, conosciamo... Si agite in un ambiente ideale, diciamo. In un ambiente isolato, quindi conosciamo tutte le forze esterne e vediamo la risposta del campione e quindi il segnale che viene generato a una determinata situazione di forze applicate sul campione. Ecco, una particolarità del metodo che avete usato, adesso lei me lo spiegherà, è proprio una sorta di simulazione, un mini vulcano che avete ricostruito in laboratorio. Noi abbiamo fatto dei terremoti, cioè il nostro studio mira alla riproduzione della sismicità, quindi noi abbiamo preso dei campioni di basalti e li provenienti abbiamo, dall'Etna, questo dobbiamo dirlo, perché siamo orgogliosamente coinvolti. Sì, no, anche perché c'è un'applicazione diretta del risultato, ovviamente ha una litologia che esiste veramente, che è nel vulcano, quindi non è un campione sintetico, perché certo. In laboratorio si usano degli analoghi. Quindi abbiamo preso questo campione e abbiamo generato un tipo di sismicità, cioè l'abbiamo deformato e quindi il campione, deformandosi e creando delle fratture, ha generato un tipo di sismicità. E poi l'abbiamo fatto attraversare da dei fluidi ad alta pressione. Che simulavano il magma? Che simulavano il magma e soprattutto i gas magmatici, che sono i più rapidi a risalire dentro un edificio. Questo secondo tipo ha generato un evento diverso, con un contenuto di frequenze, quindi un segnale sismico, nitidamente diverso dal primo. Quindi appunto questo ci ha permesso di isolare i due meccanismi, l'uno che conduce alla fratturazione, alla rottura che viene osservata, l'altro che è più ascrivibile appunto alla propagazione di gas, di liquidi e di magma. L'altra cosa importante è che abbiamo applicato delle leggi di scala, che il problema principale è poi portare questi risultati alla scala di un vulcano reale. Di un vulcano, e di un vulcano abbiamo visto che i segnali che vengono registrati sul terreno hanno le stesse frequenze, le stesse distribuzioni, quindi le leggi di scala valgono e quindi i nostri risultati sono applicabili anche alla scala reale. Se vogliamo riassumerlo con una similitudine, possiamo dire un po' che il vulcano è un po' come un'orchestra dove tutti gli strumenti suonano insieme, voi avete isolato quelli che sono i suoni di un singolo strumento, così che è più facile poi riconoscerli. Esattamente. Infatti nel numero di Science dove sì. È pubblicato c'è proprio un'introduzione generale, proprio sinfonia vulcanica in laboratorio. Perfetto. Quindi è proprio questo, cioè noi appunto abbiamo vari strumenti e abbiamo isolato il contributo di un singolo strumento rispetto appunto a un altro. Va bene, d'accordo. Allora Vinci Guerra, buon lavoro e insomma sappiamo qualcosa sul rinnovo del suo contratto? Ma in questi giorni sono giorni febbrili. Sì, lo sappiamo. Contatti tra il ministro Brunetti, i vari presidenti, anche il nostro presidente Boschi. Al momento la situazione è questa, cioè che con questa legge chi ha 5 anni di contratto con un istituto di ricerca non potrà essere rinnovato, quindi viene assorbito o va a casa. Io mi trovo appunto in questa situazione, quindi lasciamo tutto da vedere quale, perché questo accadrà il 1 luglio 2009. Speriamo che poi si capisca che insomma che la ricerca, un paese che non investe in ricerca, non investe in futuro, in speranza, in possibilità di crescere. In bocca al lupo, Vinci Guerra. Grazie, la ringrazio. A volte a Möbius mettiamo vicini due argomenti che fra loro non potrebbero essere più diversi, e questo è il caso, come capirete subito, da Barbara Gallavotti. La violenza domestica contro le donne è trasversale, attraversa i confini nazionali, economici e religiosi, la si ritrova dovunque. Esistono anche molti studi sulle sue conseguenze psicologiche, spesso si tratta di depressione e desiderio di suicidio. Sono però molto più rare le ricerche sugli effetti che potremmo definire, per così dire, fisiologici. Se ne è occupata Maria Ángeles Picó Alfonso con alcune colleghe dell'Università di Valencia, in Spagna, e ha scoperto che la violenza domestica ha effetti sul sistema ormonale delle donne che la subiscono. Maria Ángeles Picó Alfonso è con noi. Buonasera. Buonasera. Voi avete condotto una ricerca sperimentale che ha coinvolto circa 182 donne spagnole che sono state divise in 3 gruppi. Il primo era composto da donne che avevano subito violenza fisica, il secondo da donne che avevano subito violenza psicologica e il terzo da donne di controllo che non avevano subito violenza. Ci dice cosa avete trovato? Rispetto alle donne che non avevano sofferto alcun tipo di violenza, si sono riscontrati livelli di cortisolo in saliva più elevati sia nelle donne vittime di violenza fisica sia in quelle che avevano subito violenza psicologica. Una conclusione importante di questo studio è che la violenza fisica e la violenza psicologica esercitate dal partner hanno effetti ugualmente significativi sui livelli di cortisolo di queste donne. Quindi il cortisolo è un ormone legato allo stress, può descrivercene gli effetti? La scelta è caduta sul cortisolo poiché rappresenta, come lei ha detto, un indicatore universalmente riconosciuto di stress cronico. Inoltre, modificazioni nei livelli di questo ormone possono implicare alterazioni di varie funzioni dell'organismo, che coinvolgono, ad esempio, il sistema cardiocircolatorio, le difese immunitarie, il metabolismo. Quindi un ormone che si ripercuote un po' su tutto l'organismo. Ma ci sono altri ormoni che avete trovato essere alterati nelle donne che hanno subito violenza? Sono stati documentati anche incrementi delle concentrazioni di un altro ormone, corticosurrenalico, diidroepiandrosterone. Quindi il quadro ormonale che si presenta è tutto un po' alterato? Certo. Può dirci come avete definito violenza psichica e violenza fisica? Perché avete detto che appunto le alterazioni si trovano a carico delle donne che hanno subito sia l'una che l'altra. Però come le avete definite? Per violenza fisica intendevamo maltrattamenti di diverse gravità che andavano da calci, pugni, spintoni fino a tentativi di strangolamento, minacce con oggetti come coltelli o armi da fuoco. La violenza psicologica invece poteva essere caratterizzata da insulti, umiliazioni, isolamento, ricatti di natura economica o emozionale che prevedevano il coinvolgimento dei figli. Le donne che voi avete preso in esame avevano subito maltrattamenti negli ultimi 12 mesi. Quanto ci mette l'organismo femminile a riprendersi da una violenza? Nella mia ricerca purtroppo non è stata valutata l'evoluzione nel tempo dei livelli di cortisolo e del resto non mi risulta che nessuno fino ad oggi abbia effettuato un studio longitudinale al proposito, come si vuole. Le mie colleghe spagnole stanno al momento estendendo lo studio per valutare anche questo aspetto. Le ricerche sugli effetti che potremmo definire fisiologici della violenza domestica, come l'alterazione degli ormoni, sono piuttosto rari. Come mai, secondo lei? Fino a qualche anno fa si è focalizzata l'attenzione per lo più sulla violenza di natura fisica e si sono documentati gli effetti esteriori più evidenti, come ematomi, contusioni, ferite, fratture e nei casi più estremi la morte. Anche mancavano dati documentati su ormoni che fossero indicatori dello stato di salute complessivo. Appena è stato possibile, per noi è stato importante evidenziare conseguenze fisiologiche non immediatamente rilevabili, ma non per questo meno importanti, come le alterazioni della funzione endocrina e immunitaria. Perché si è così a lungo ignorato che anche la violenza psicologica può essere importante al punto da avere gli stessi effetti della violenza fisica? La violenza psicologica è più sottile, meno evidente e più difficilmente quantificabile. Questo ha portato inevitabilmente a sottovalutarne gli effetti. Uno dei risultati per noi più sorprendenti e importanti consiste proprio nell'aver dimostrato che la sola violenza psicologica ha un impatto rilevante e non inferiore a quella fisica, non solo da un punto di vista fisiologico, ma anche sulla salute mentale. Infatti, sintomi d'ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico erano frequentemente riscontrati in queste donne e si associavano ad alti livelli di cortisolo. Grazie, Maria Angela Spicò Alfonso. Buonasera. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Un convegno recente, un convegno internazionale a Firenze, ha discusso di origini della vita, nel senso più lato del termine. Ovviamente siamo interessati a ragionare di queste cose per quanto riguarda il nostro pianeta, però c'è anche la vita possibile nell'universo, la vita che dall'universo può arrivare qui da noi. Uno degli organizzatori del convegno è Fabio Pagan. Buonasera Pagan. Buonasera Pedrocchi. Siamo colleghi, anche tu giornalista scientifico. Fabio, ci puoi dire, credo, qualcosa in merito a uno dei temi centrali che sono emersi in questo convegno, e cioè la disputa intorno alle prime forme di vita sul nostro pianeta. In sostanza, a Firenze una giovane paleontologa australiana di 35 anni che da un anno lavora in California allo Ames Research Center della NASA ha presentato i dati riguardanti le sue ricerche degli ultimi anni sulle stromatoliti trovati in Australia, nell'Australia occidentale, nella regione di Pilbara. In sostanza Abigail Halwood ha studiato queste rocce, si chiamano stromatoliti, sono delle rocce un po' tondeggianti che sono formate anche dalla stratificazione successiva, sembra di colonie batteriche che hanno inglobato poi sedimenti di rocce e fango, e si trovano soprattutto in zone di acqua bassa, dove un tempo c'erano acque basse, dell'Australia, del Sudafrica, della Groenlandia, dell'Antartide. L'epoca, e questo è importante saperlo, intorno a 3,4 miliardi di anni fa, teniamo conto che la Terra si è formata 4 miliardi e mezzo di anni fa. Ora Abigail Halwood ha identificato delle strutture sicuramente biologiche e sembra sicuramente batterica all'interno di queste stromatoliti, mentre altri dicono che queste sono delle sostanze organiche formatosi, composte di carbonio, formatosi in moto per reazioni geologiche, non certamente di natura organizzate biologicamente. Ora, queste ricerche di Halwood vanno un po' a combattere, in un certo senso, quelle che erano state le scoperte di un famoso paleobiologo americano, Bill Schoff, dell'Università di Los Angeles in California, il quale già negli anni 90 nella stessa regione aveva detto di aver identificato nelle rocce delle strutture fossili filamentose ricche di carbonio che aveva identificato come possibili cianobatteri, batteri molto primitivi, già in paleosintesi. Le sue ricerche erano state negate in un certo senso da un suo collega Martin Bracer, il quale ha detto no, sono strutture semplicemente ricche di carbonio ma non batteri. E le ricerche di Abigail Halwood sembrerebbe invece confermare che le stromatoliti da lei studiate sono sicuramente di origine batterica, mentre invece quelle di Bill Schoff non lo sarebbero. È una polemica che agita il mondo dell'astrobiologia ormai da diversi anni, ma questo ci dà anche l'idea di quanto sia complesso identificare dei marcatori che ci diano la certezza di avere a che fare con tracce di forme di vita. E se questo è difficile sulla Terra, figuriamoci su Marte o altrove. Perché in conclusione, Fabio, il punto è che non tutto ciò che può sembrare organico è di fatto invece all'origine di sistemi vitali. E questo è il punto, no, che tu hai toccato. Esattamente, e c'è una bella differenza tra le due cose. Va bene, Fabio, adesso io passo a un'altra tua collega presente al convegno, Sandra Pizzarello. Buonasera. Buonasera. Biochimica, professore emerito all'Arizona State University, da lì ci sta parlando, dall'Arizona, e in questa università lei lavora e fa ricerca da tanti anni. Sandra Pizzarello, perché è interessante studiare i meteoriti dal punto di vista dell'origine della vita? I meteoriti sono letteralmente dei pezzi di materiale extraterrestre che raggiunge la Terra senza essere completamente distrutti dall'atmosfera. Sono dei frammenti di asteroidi, e gli asteroidi sono quei piccoli pianeti di varia misura, di varia forma, che orbitano il Sole, hanno una distanza tra Marte e Giove. I pianeti sono distribuiti a distanze regolari dal Sole verso l'esterno. Qui invece non c'è un pianeta, ma ci sono questi pianetini, tantissimi, e sembra che sia stato che Giove, il pianeta gigante, si è formato prima e ha esercitato una tale gravità su questi pezzi di materiale che erano verso la formazione di un pianeta, che non si sono mai messi assieme. Ora, il risultato felice di questo pianeta fallito è che questi pianetini non hanno mai sofferto, si può dire, la formazione del pianeta, la perdita di materiale volatile, la fusione delle rocce e così via. In altre parole, presentano un materiale intonso come è venuto ad essere vicino alla Terra prima che cominciasse la vita. Perciò per gli asteroidi che contengono carbonio, questo significa un prodotto naturale, perché i meteoriti raggiungono la Terra in centinaia di grammi, di chili, molto spesso, un materiale naturale che noi possiamo portare in laboratorio, studiare a volontà e vedere cosa sarebbe stata la base abiotica per la formazione eventualmente della vita. Ma come fate a guardare sopra questi meteoriti questo materiale? Quali strumenti usate? Questa è anche una domanda che molti mi chiedono, ma in realtà è un pochino più semplice di quanto non sembri. I meteoriti sono dei pezzi di roccia, veramente, però sono ancora una roccia che non è stata metamorfosizzata, che è aggregata, perciò quello che cominciamo a fare è veramente spaccarli in pezzi, farne una polverina e poi si procede come si procederebbe in cucina, li mettiamo in acqua, pento la pressione, esattamente, li bolliamo e poi da lì cominciano separazioni chimiche, ma non molto complicate, si separano i vari tipi di composti, così via, si procede passo a passo verso il mio ultimo strumento, volevo dire, senza cui io veramente non potrei fare, è lo spettrometro di massa. In altre parole, i composti vengono asciugati da tutta quest'acqua e da tutti questi solventi, poi vengono uniti con altri materiali chimici che li fanno diventare volatili e si introducono in una colonna cromatografica e poi vengono frammentati, e dai tipi di frammenti che si ottengono si decide qual è il composto. Io so, Sandra Pizzarello, che probabilmente in molti di quelli che ci ascoltano c'è l'immagine, perché è arrivata in questi ultimi anni, di meteorite con sopra della vita che arriva sulla Terra, quindi con tracce di molecole organiche. Cosa possiamo dire rispetto a questa immagine? Probabilmente dovrei spiegarle cosa ho trovato in tutti questi anni di analisi dei meteoriti. C'è una grande, grande varietà di composti organici. Alcuni sono identici a composti che troviamo in molecole biologiche, aminoacidi, acidi come l'acido acetico, faccio conto, ci sono prodotti più grandi, alcuni per esempio sono anche metaboliti nei processi biologici. Comunque quello che troviamo è una grandissima varietà, come dicevo, e non c'è segno della selettività molecolare o della scelta strutturale che noi vediamo nella vita. In altre parole, queste sono le due differenze tra materiale biologico e materiale non biologico. Materiale non biologico sembra che sia cresciuto da reazioni chimiche più o meno casuali, mentre nella vita vediamo una selezione definitiva. Se però ci chiediamo come questo materiale avrebbe potuto aiutare lo sviluppo della vita verso l'origine della vita, allora troviamo nel materiale dei meteoriti un tratto molto interessante, che è quello della chiralità. Ecco, chiralità è un fenomeno naturale che ci può aiutare proprio per interpretare questo materiale. Il modo più semplice di descrivere chiralità, usando un termine inglese, non so adesso a questo punto come lo tradurrei in italiano, è handedness, che significa la manualità. In altre parole, l'esempio più comune di chiralità è dato dalle mani. Le mani, comunque le giri e le volti, non le possono essere mai messe una sopra l'altra esattamente, sono solo immagini speculari. Ora si dà il caso che l'atomo di carbonio abbia un'orientazione spaziale delle sue valenze tale che quando tutte e quattro le valenze sono sostituite da quattro gruppi diversi, l'atomo di carbonio diventa asimmetrico. In altre parole, ha la proprietà delle mani. Ora si dà anche il caso che tutti i polimeri biologici, indispensabili alla conduzione della vita, hanno scelto delle forme monomeriche, aminoacidi e lo zucchero per DNA, RNA, che hanno solo una chiralità, una handedness. Ora, l'origine di questa omochiralità, come viene chiamata, è un mistero, non si sa come sia iniziata, però le due teorie sono: è stata aiutata prima della vita da una qualche chimica asimmetrica ed è evoluta con la vita. Ora, di fronte a questo dibattito, il fatto che nei meteoriti si siano trovati degli aminoacidi che hanno una sovrabbondanza della forma L, in altre parole come troviamo nelle proteine, ha dimostrato non tanto che forse questi aminoacidi stessi sono stati incorporati, ma ha dimostrato che nell'evoluzione cosmochimica che noi osserviamo nei meteoriti ci può essere stata un'influenza asimmetrica. La soluzione del quiz, ovvero la Luna circondata da anelli colorati, no, non c'entrano varie forme di inquinamento, la risposta giusta è le nubi sottili come un velo in alta quota. Se prendete un vetro, vi alitate sopra formando un lieve strato di goccioline e poi guardate una candela, vedrete anche in questo caso gli anelli colorati. Sì, d'accordo, la sera si può fare qualcosa di meglio, però questa è la soluzione del quiz. Come si sta pensando di entrare in una nuova epoca per quanto riguarda l'intero sistema finanziario e bancario mondiale, così dopo l'assegnazione dei premi Nobel di quest'anno sono circolate con maggiore insistenza, direi che altre volte, le richieste di un cambiamento alla radice dei meccanismi di scelta. Non v'è dubbio che siamo tutti convinti che la cosa più urgente da cambiare sia la prima, quindi speriamo che ci diano dentro, magari ignorando quanto hanno dichiarato in merito alle questioni finanziarie molti Nobel dell'economia di molte passate edizioni. Insomma, speriamo che ci diano dentro i governi, le autorità competenti e tutti quelli che possono fare qualcosa. Però se si cambiasse questo premio Nobel non sarebbe male, che poi è tutta l'area dei premi scientifici del Nobel che va modificata. E qui che le cose che non funzionano. Non vanno queste cose da almeno un quarto di secolo, a dir il vero, però negli ultimi 15 anni il problema è, direi, esploso, perché la circolazione delle informazioni e degli scambi all'interno del mondo scientifico si è enormemente accentuata. Internet poi è uno strumento che consente la gestione quotidiana di gruppi di ricerca composti da ricercatori sparsi in ogni angolo della Terra, con comunicazioni che sono sempre più anche visive, cioè ci si guarda in faccia, si guardano insieme i filmati, i grafici, tutto tutto quello che si vuole. Ecco allora che per una scoperta da premio Nobel è sempre più difficile individuare uno solo o due ricercatori da premiare. Poi il Nobel ha questa regola che non si possono conferire più di 3 premi per ogni area, ovvero fisica, chimica e medicina. È ampiamente verificabile invece che per molte scoperte o teorie premiate almeno un pool di 6 o 7 persone sarebbe stata la scelta migliore. C'è poi un altro aspetto, cioè la modifica profonda che la ricerca sta manifestando in molti campi nuovi, cruciali. Le nanotecnologie, per esempio, stanno costruendo competenze che mettono insieme una vera e propria macedonia di pezzi di discipline diverse, ed è assolutamente impossibile racchiudere queste cose in una delle 3 aree premiabili. Se poi teniamo presente che il premio non è correggibile, beh, la frittata è fatta. Mi spiego: se un certo anno X risulta evidente a tutti che il signor Tizio doveva proprio ricevere il Nobel e invece non l'ha ricevuto, non può certo accadere che l'anno dopo si ripari all'errore, perché un'operazione di questo genere getterebbe nel ridicolo l'intera istituzione. Allo stesso tempo, molti osservatori sottolineano un fatto importante che potrei definire emotivo e che certamente non è aggirabile. Se aumentano le discipline da premiare, se aumentano i premiati, quindi ogni anno poniamo di premi Nobel per la scienza ce ne sono 30, ecco che il fascino di questo riconoscimento si sgranerebbe completamente, rimandando a una certa soddisfazione, che ne so, relegata al condominio in cui il premiato o la premiata risiederebbero. Insomma, un cartello in portineria. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È già iniziato da qualche giorno a Città di Castello il Festival della Filosofia della Scienza. Direi che partecipa all'evento una buona fetta dei nostri epistemologi. Qui il programma: Paolo Rossi, Giulio Giorello, Armando Massarenti, Stefano Morigi. Però vedo anche delle curiose incursioni di personaggi come Corrado Augias e Furio Onsel. Il festival termina il 26 di questo mese e anche corredato da una mostra organizzata dall'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, l'INFN. Il titolo della mostra è La natura si fa in 4 e il numero si riferisce alle 4 forze fondamentali che regolano tutto ciò che ci circonda, però anche noi compresi. Dunque, siamo all'ultimo argomento di questa puntata di Mebius. Sta proprio cambiando il mestiere dell'archeologo, però non mi sembra che perda il suo indubbio fascino. Vediamo cosa ne pensate andando in Siria con Maurizio Melis. Buonasera, Daniele Morandi Bonaccossi, è in linea, ci sente? Sì, ci sono, buonasera a lei. Allora, lei è ricercatore presso l'Università di Udine di storia e tutela dei beni culturali. Adesso però si trova in un buco a Katna. Ci dice anzitutto dov'è e che cos'è Katna? Katna è un'antica città insediata dal terzo al primo millennio avanti Cristo, che si trova nell'odierna Siria centrale, a metà strada fra la capitale, che è Damasco, e Aleppo, la seconda città più grande della Siria, che è a nord di Damasco, quindi a qualche centinaio di chilometri da Damasco. A 160 chilometri da Damasco. Okay. E cosa è lì a fare? Siamo qui con una missione archeologica, appunto, dell'Università di Udine. Noi siamo archeologi del vicino Oriente Antico e scaviamo in questo antico sito della Siria da 10 anni, dal 1999, quest'anno il 10° anno di attività, e scaviamo questa città che, come dicevo prima, fu fondata alla metà del terzo millennio e raggiunse l'apice della sua splendore, della sua gloria, del suo sviluppo economico e politico nella prima metà del secondo millennio, e poi iniziò un graduale declino che si concluse attorno alla metà del primo millennio avanti Cristo, quando la città venne poi abbandonata. Fu abbandonata. Ecco, come mai venne abbandonata questa città? Fu abbandonata per una serie di ragioni, naturalmente non c'è mai un'unica causa, un insieme di concause che contribuirono a determinare l'abbandono. Fra queste cause c'è prima di tutto una ragione di carattere politico, militare, e cioè che la Siria, i grandi re assiri della fine dell'VIII secolo, in particolare Sargon II, naturalmente, sì, e iniziarono una conquista, un'espansione molto rapida della Siria occidentale, e presero

strade più macchine uguale traffico, è questo che andiamo a verificare ora. Poi ve l'avevo detto, riprendiamo con terremoti e tremori.